aveviame sodato nella prigion, io l'ho osservato anche abbattito il picciol fior, il tuo profumo aveva ancor notte di nel carcere oscura, io così Carmen te lo giuro, mi inebriai del caro buon ed invocai lontano ancor. Io l'amor mio malediceva e nel mio valor ripeteva per qual voler, per qual destin nebbia veder sol mio cammin. Poi di me stesso era l'orrore e non avevo in questo cuore e non sentivo che un sol desir, riveder Carmen e del mio cor in pose sarde. O Carmen mia, il tuo schiavo, amore mio,